Adesso mi senti? Sì. Oh, c'è un sacco di gente dentro. Ah, Nimbot. Cos'è? Adesso. Aspetta. Io ho il microfono, quello del computer, eh. Oh, sta andando a patona il tipo qua. Io sì, ok, adesso però sono sempre in ritardo. Senti, adesso te lo faccio sentire via microfono. Mute gli altri, mute a Shadow, e adesso ti metto la cuffia sul. Senti. Ciao Livio! Sì. Sì. Sì. Ti sento Livio, fai una grattugiata se mi senti. Funziona, però sono in ritardo. Ok.